Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi e Italia in controluce, il racconto della cronaca su Radio 24. A battere il Corviale a Roma, il gigantesco edificio costruito lungo la via Portuense. È una delle proposte della politica. Al Serpentone però abitano oltre 14.000 abitanti. E allora che fare? Il reportage di Maria Chiara Grandis. Abbattere il Corviale per Roma sarebbe un salto di qualità eccezionale, è un ritorno alla città cultura. Mentre a Roma si riapre il dibattito sul futuro edilizio della città, verticale, orizzontale, medievale o moderna, il neoassessore alla Casa del Lazio, Teodoro Buontempo, lancia una proposta. Il suo sogno è la demolizione del Serpentone, il grattacielo sdraiato di 1,9 chilometri d'altezza, progettato nei primi anni 70 sul modello d'architettura sociale di Le Corbusier. Periferia nord-ovest della capitale, 5 lotti in cemento armato e 1.200 appartamenti dell'ex Istituto Case Popolari, il Serpentone ospita circa 7.000 persone. Oggi l'assessore Buontempo, che nella giunta Polverini rappresenta la destra di Storace, propone alloggi temporanei per poter abbattere l'edificio e ricostruire. Penso a una città giardino dove gli abitanti del Serpentone possono anche diventare proprietari con un sistema di mutuo sociale, di riscatto, con interessi sui mutui abbattuti, e perché anche chi è in affitto quel denaro versato faccia somma il momento in cui, se Dio vuole, le sue condizioni migliorano e possa riscattarla. Questo penso, primo per risparmio, perché le manutenzioni costano tantissimo. Corviale è costata 44 milioni di euro per manutenzioni di cui nessuno si è accorto la qualità, e 23 milioni di euro si dovrebbero spendere nei prossimi mesi, si mettesse l'uomo al centro del modello anziché la golosità di alcuni personaggi che pensano che quando si costruisce la casa sociale quella possa essere fatta senza qualità, senza stile, mettendo le persone come se si trattassero di polli in batteria. E fu così, grazie ad una vincita al Totocalcio, che riuscimmo a scavalcare 80.000 concorrenti partiti prima di noi nella corsa all'appartamento. Quella mattina il complesso Case Popolari di Corviale ci apparve in tutto il suo splendore. Le prime chiavi di casa furono consegnate nel 1982 agli sfrattati dal centro città. Da allora Rina Spagnoli abita al Corviale. Ex assessore municipale di Rifondazione Comunista, si interessa al quartiere e ai suoi abitanti, che in media pagano 350 euro al mese fra affitto e utenze. 80 metri quadrati, il suo appartamento è il numero 4. Questa casa è una delle case più fedeli, che non ho fatto grosse modifiche, lavori. Cioè, questa, diciamo, così c'era questo pavimento, che è linoleum, così. Le finestre erano blu e così sono rimaste. Questa è una cucina abitabile che penso che non se ne vedano più. Ci abbiamo un balcone. La casa viene consegnata vuota e poi tu pensi a sistemare il tutto. Ci sono qua dentro delle case bellissime. C'è chi ha fatto dei lavori perché era muratore, o perché aveva comunque le mani d'oro. Corviale, che se ne dica, per come è fatto e per come è strutturato, invece dà l'idea di grande libertà. Ci sono dei corridoi lunghi che danno proprio l'idea della una linea di fuga molto bella, molto, e aria. Biblioteca, centro polivalente, scuole e negozi. Per molti il Corviale non è un ecomostro da cancellare, nonostante la struttura non sia ultimata e sebbene gli spazi comuni del quarto piano siano occupati abusivamente da nuovi inquilini, soprattutto italiani come il resto dei residenti. Per Rina, più che di degrado, si deve parlare di sciatteria. Vorremmo solo essere ascoltati sulle cose che noi chiediamo, che non è l'abbattimento, è la riqualificazione, e vuol dire poter tinteggiare, se possibile colorare il palazzo, sistemare i benedetti ascensori, avere la possibilità di vedere l'erba tagliata qualche volta in più. Sul Corviale ci sono leggende da sfatare, fra queste il suicidio di Mario Fiorentino dopo averlo progettato. Più di 30 anni dopo, urbanisti e architetti come Giulio Fioravanti provano a immaginare il futuro del Serpentone. Se oggi andiamo a dire, ma cosa si deve fare di Corviale? Restituire il suo senso originario, farne una città verticale. Innanzitutto facciamoci Roma 4, Roma ha bisogno anche della quarta università, Cioè, è evidente che quello che non ha funzionato non è tanto il progetto urbanistico edilizio, è il progetto di assegnazione, cioè il progetto sociale, che vuol dire fare un mix di persone che abbiano attività diverse, significati diversi, che abbiano volontà diverse, un mix di attrezzature che abbiano tutte queste cose. Buttare giù i palazzi invece che trasformarli all'uso, non l'ho mai sentita. Tornare indietro non serve a niente. Dopodiché è un'esperienza, è stato quel che è stato, resterà là negli anni, come sono state fatte tante esperienze. Italia in controluce. Fino al 20 giugno alla Napoli Teatro Festival è in scena La fabbrica dei sogni di Davide Iodice. A partire dai racconti degli ospiti del dormitorio pubblico di Napoli, il regista partenopeo ha messo in scena uno spettacolo frutto di un laboratorio tenuto dal regista nei mesi scorsi. Frammenti di ricordi, incubi, ferite del passato, per questo autore napoletano da sempre interessato a portare il teatro nei luoghi del disagio. Adriana Fracchi ha chiesto a Davide Iodice come è nata l'idea di realizzare questo spettacolo. Era un po' di tempo che volevo esplicitare, formalizzare questa ricerca che insomma comunque è un po' alla base di tutto il mio lavoro, che è appunto cercare, come dice Cesi, la materialità dei sogni, no? La sostanza dei sogni. E, ho cominciato a lavorare partendo all'inizio dalla frase shakespeariana, proprio per un laboratorio lungo iniziato col Mercadante, e si sono incrociati altri testi, si è incrociato il sogno di Strindberg a un certo punto, però tutto questo materiale mi sembrava un po' aleatorio. Capivo che quello che mi interessava veramente era il rapporto contraddittorio tra una vita immaginata, immaginaria, e quello che poi è la realtà da svegli. E quindi ho cominciato a capire che il sogno che mi interessava non era la fantasia di una divinità come nel sogno di Strindberg, ma proprio la lotta notturna che compiono le persone sofferenti, vinti, gli ultimi. I sogni degli ultimi sono quindi cominciati ad essere la traccia sulla quale mi sono mosso, e poi ho capito insomma che immaginando un luogo metaforico, come sempre faccio, un paesaggio poi nel quale calare il popolo scenico degli attori, ho cominciato a pensare che un luogo poteva essere proprio il dormitorio pubblico, proprio come emblema di una società che dorme serialmente insieme, no? Anche le nostre città, se le scoperchiamo, ci danno questa serie infinita di letti, no? Anche contigui nei nostri condomini. E ho pensato un po' ingenuamente, romanticamente, che in un posto dove si può dormire insieme, si può anche sognare insieme, quindi probabilmente tentare insieme un progetto di cambiamento di una realtà fortemente tragica, che è quella che appunto ci si ritrova al mattino. E ho cominciato ad ascoltare, a vivere con gli ospiti del dormitorio pubblico di Napoli, immaginando poi che questo possa essere un progetto, una prima tappa di un viaggio in Italia, anche per cogliere, no, questo senso proprio sul corpo delle persone, della parola crisi che tanto pronunciamo in questi ultimi tempi, proprio scendere nella profondità delle crisi esistenziali prodotte da diversissime cause, la perdita del lavoro come la distruzione di una relazione familiare, affettiva. Poi in un secondo momento sono arrivati gli attori, che sono 9 tra attori, danzatori e una cantante, e ho affidato ad ogni attore, danzatore, un ospite, quindi ciascun attore è, come dire, l'incarnazione del sogno, più spesso incubo, degli ospiti. Che storie sono emerse per lo più? Quello che è emerso con chiarezza è che c'è una specificità della persona che non può rientrare in nessuno schema preventivamente immaginato. Ci sono delle storie veramente impensabili. Quella che accomuna un po' tutti è questa grande fragilità, no? Cioè, sono cristalli che si spaccano in un punto. Il punto per alcuni è aver perso il lavoro, oppure essersi giocato tutto, essere indebitato con gli strozzini, oppure una separazione, oppure non arrivare a fine mese. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. www.radio24.it. Continuate a scriverci, controluce@radio24.it, oppure a proporci temi sul nostro gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Domani alle 6.30 su Radio 24 torniamo con nuove storie.